vostri soldi su una cosa seria. Di Deborah Rosciani e Mauro Meazza. Caro mio, è giovedì, lo sai che c'è un appuntamento preciso, vedo che la tua agenda lo segnala correttamente. Sì, è perché, guarda cara Deborah, io come ogni giovedì vengo col blocchetto degli appunti. Bravo, così mi piace. Il bloccone degli appunti, perché voglio prendere appunti appunto per investire informati. Esatto, oggi abbiamo tanti temi interessanti dei quali parlare, perché c'è questo mercato americano che corre senza sosta, quindi cercheremo di capire se è il caso di tirare un po' i freni in barca rispetto al nostro investimento magari sul mercato americano o meno. Ma ci sono tanti altri argomenti, l'Europa un po' nervosa per la crisi catalana, poi anche le borse asiatiche, ma anche l'agenda politica italiana è un pochino innervosisce, poi lo vedremo. Oggi abbiamo un'altra asta importante di BTP, in questo caso ieri ce n'è stata una importante che ti è piaciuta perché mi hai sollecitato a mettere un punto preciso della scaletta. Sì, perché perdona Deborah, ma noi che siamo meno avvezzi di te a questi temi, ci chiediamo: ma perché comprare un titolo che mi verrà rimborsato a meno di quanto ho speso? Una bella domanda. Tu pensa che lo stanno facendo in tanti da ben 2 anni, da 24 mesi consecutivi, quindi è un tema che sicuramente sarà affascinante affrontare con il nostro ospite di questa mattina. Ma prima di tutto questo, caro Mauro, prima di partire con Investire Informati, sono un po' preoccupata per la questione delle tessere Sky craccate. Allora, illuminami tu in questo caso, visto che io poi devo fare il mio compito con Investire Informati, in questo caso vieni giù armato di sentenze. Sì, mi sono procurato la sentenza che è stata segnalata sul Sole 24 Ore e anche su altri giornali, a dire la verità, proprio nelle giornate di ieri, perché c'è stato un signore che si è preso, è arrivato fino alla Cassazione, perché diceva: vabbè, sì, insomma, io vedo Sky a scrocco, cioè in sostanza aveva fatto un po' di magheggi per riuscire a vedere le partite. Sì, no, la ricostruzione di quello che si era costruito appunto in casa era abbastanza originale. Sì, una rete domestica, poi internet collegata alla TV e poi insomma vedeva Sky senza avere la tessera. Ecco, in sintesi. Devo dire, non forse ben consigliato dal suo avvocato, mi permetto, è arrivato fino in Cassazione sostenendo perché voleva aver ragione di quello che aveva fatto. Voleva aver ragione, la Corte d'Appello di Palermo gli aveva già affibbiato 4 mesi di reclusione e 2.000 euro di multa. Lui però è andato in Cassazione e ha detto: no, ma non è possibile, perché io questa cosa qui la faccio per me, non la diffondo con nessuno. E questo è il punto importante da chiarire agli ascoltatori. Allora, invale questa lettura che dice: beh, ma se io frego, ma solo per uso personale, non è reato. Ohimè, non è così. Tocca dire che mentre negli Stati Uniti c'è una diversa normativa, da noi la legge sul diritto d'autore, quella del 41, ovviamente riammodernata e aggiornata, dice molto chiaramente che anche l'uso personale di materiale coperto dal diritto d'autore o appunto soggetto a un abbonamento, come nel caso delle partite di Sky, ebbene, è punibile. E c'è stato un momento, forse la confusione, perché c'è stato qualche anno tra il 2000 e il 2003, il reato era stato depenalizzato, voleva dire era oblabile, insomma uno pagava una multa e la cosa finiva. Oblabile. Così dicono gli avvocati, ma non prendetela con me. Vabbè. D'altra parte tu hai un sacco di termini inglesi quando parli di risparmi. Ma io li traduco subito, questo è intraducibile. È oblabile, è un termine per dire che si poteva pagare e la cosa finiva lì. Invece dal 2003 però la normativa è cambiata, è reato, finisce che il giudice ti irroga una sanzione di reclusione, come è stato in questo caso, 4 mesi, 2.000 euro di multa, in più la Cassazione che si è sbrigata anche in 2 paginette per dire: caro mio, tu hai torto ed è inutile che vieni a sindacare fino da noi, ti diamo anche il pagamento delle spese processuali e anche un bel 2.000 euro in favore della Cassa delle Ammende, così impari. Allora io lo dico, domenica si gioca il derby. È lì che volevi arrivare, di la verità. Dico, state attenti, insomma, a non fate i furbetti, perché come vedete la legge sul diritto d'autore è diversa, non è come in America, se lo faccio per me in fondo non rischio niente. No, in realtà c'è la sanzione, la sanzione addirittura del carcere. Spendete 2 soldini per venire allo stadio, che è meglio, e così ci togliamo dalla testa tutte le così congetture possibili. 2 eurini, lo dico soprattutto a beneficio di Alessandro Milan che salutiamo. So che non vuole mai spendere i suoi 2 eurini, invece in questo caso è meglio se li spende. Per i 2 eurini investiti sui mercati finanziari invece si apre adesso la nostra rubrica del giovedì. Investire Informati. Wall Street senza più freni, Europa nervosa per la questione catalana, ma un po' anche le tensioni politiche italiane, borse asiatiche effervescenti. Pensate che Tokyo è ai massimi da 21 anni a questa parte, ripresa dalla stagione delle trimestrali, banche centrali pronte all'azione. Ieri sera la Banca Centrale Americana lo ha ribadito ancora, a dicembre interveniamo, e quindi un'azione sì, ma comunque che rimane all'insegna della grande prudenza, e rendimenti dei titoli di Stato in caduta libera. Questa è l'agenda della nostra rubrica delle giovedì, che leggiamo molto volentieri con Marco Parini, direttore investimenti di Chebanca, gruppo Mediobanca, che inaugura la sua partecipazione ad Investire Informati. Benvenute, grazie. Grazie a voi, buona giornata. Naturalmente tutti gli ascoltatori lo possono anche seguire nel nostro live Facebook, e non l'abbiamo ricordato. Salutiamo subito gli ascoltatori che ci seguono a Facebook, sono sempre molti e ci fa molto piacere. Esattamente, poi soprattutto per tutte le domande che riguardano un po' il trend dei mercati finanziari, le curiosità su questi argomenti, ma anche le curiosità a proposito del proprio risparmio investito, come le possono esaudire i nostri ascoltatori? Allora, possono innanzitutto telefonarci in diretta 800 24 00 24, ma c'è il numero per SMS e WhatsApp, è sempre il solito 349 238 6666. Non vi piacesse né Facebook né l'SMS né il WhatsApp, vi diamo anche una casella email, 2didenari@radio24.it. Attenzione che 2 è scritto a lettere, esatto. Di denari. Il piccione viaggiatore non lo abbiamo ancora inaugurato, ma non si sa mai nella nostra lunga vita di 2didenari. Allora, dottor Parini, mercati finanziari offrono in questo periodo veramente tante questioni interessanti da affrontare per voi operatori appunto professionali, e diciamo che questo 2017, esattamente come è stato il 2016, sembra essere un anno di nuovo davvero sfidante per gli operatori dei mercati finanziari e i professionisti del risparmio. Rifaccio un po' di sintesi per coloro che si sono dimenticati magari i temi rilevanti dell'anno scorso, che si è aperto, non appena sono tornata, Mauro, tu non c'eri ancora con me dal Capodanno, subito abbiamo avuto la crisi della borsa cinese, la bolla che è scoppiata, in realtà qualche segnale l'aveva dato anche nell'estate precedente, ma insomma è stato l'inizio d'anno con il botto. Poi abbiamo avuto a giugno Brexit, poi a novembre le presidenziali americane, la grande attenzione ai movimenti del petrolio, quest'anno le diverse tornate elettorali europee. A breve abbiamo anche, e ne parliamo poco, ma direi di cominciare a parlarne, perché sennò succede come con la Catalogna, che nessuno parla dei fatti, poi arriva qualche sorpresa e il mercato si innervosisce. I fatti sono testardi, come si dice. Esatto, le elezioni anticipate in Giappone il 22 ottobre. Dicevamo della sorpresa della Catalogna, a cui fino a poche settimane fa nessuno dedicava grande attenzione. Dottor Parini, da dove vuole cominciare? Quello che possiamo subito evidenziare ai nostri ascoltatori è che la politica è stata e continua ad essere un driver abbastanza importante per i mercati, o no? Beh, assolutamente, assolutamente lo è, come d'altra parte lo sono anche le altre variabili, però diciamo che in questo periodo è forse il fattore che ci ha dato più spunti per poter andare a testare magari i mercati. La politica lo è, e ad esempio lei ha fatto riferimento al 2016, che dal mio punto di vista è stato un anno esemplare, cioè avevamo 2 eventi che sono stati Brexit e le elezioni presidenziali americane, che sono stati 2 eventi inattesi, perché comunque tutte e 2 si sono poi evoluti in una sorpresa, l'elezione di Trump e il risultato. Siamo andati a dormire con un risultato e ci siamo svegliati con quello completamente opposto. Esattamente, in entrambi i casi. E, però questo è esemplificativo, perché comunque i mercati reagiscono sempre a qualunque tipo di informazione, evento, soprattutto nei momenti di bassa volatilità come quello attuale. E ritornano a concentrarsi sui fondamentali. E ritornano a concentrarsi sui fondamentali in un periodo che può essere breve o magari più lungo. Se noi andiamo a vedere quello che è successo con Brexit, diciamo che il tormento è durato qualche settimana, per poi rivedere comunque i mercati a livelli pre-Brexit. Nel caso di Trump addirittura una notte sola è durato, perché al momento del discorso di investitura di Trump la mattina successiva già gli indici schizzavano ed erano positivi. Questi eventi muovono sempre il mercato, quello che bisogna fare però è chiedersi come questi eventi possono andare ad influire sul ciclo economico, cioè se possono andare a far iniziare a dare avvio ad un ciclo recessivo o ad un'inversione, di rotta, altrimenti portano solo volatilità. Beh, sicuramente, Mauro, la riforma fiscale annunciata da Trump avrà anche l'obiettivo di avere una influenza sul ciclo economico, no? Cosa ne pensi? Tu che comunque guardi questo tema dal punto di vista italiano, fisco ed economia viaggiano a braccetto. Sì, è una riforma che in realtà aveva generato molte molte aspettative, poi abbiamo visto che, non, come sempre, tra le promesse elettorali e la loro attivazione normativa ci passa sempre parecchio, in questo caso forse più di quanto si aspettava, cioè nessuno si aspettava che Trump dopo una settimana avrebbe varato la sua riforma elettorale, però devo dire che insomma adesso a distanza di mesi qui siamo ancora davvero, verrebbe da dire, sulle ginocchia di Giove, insomma. È stato delineato un piano generale, però tutti i dettagli vanno capiti, va capito quanto costa. Infatti io volevo chiedere dottor Parini, però è vero, la politica ci condiziona, ma poi i mercati sembrano anche reagire talvolta più rapidamente o anche quasi con disinteresse a delle sollecitazioni politiche, a delle incertezze politiche o a delle evoluzioni politiche inattese. Lei ha citato Brexit, ma potremmo anche fare il caso delle elezioni tedesche con Alternative für Deutschland, che ha preso di più di quello che penso chiunque si aspettasse, e quindi verrebbe quasi da dire sì, però i mercati poi alla fine, assorbito lo shock delle prime ore, vanno per la loro strada e si disinteressano un pochino delle lentezze di Trump, dei problemi della signora Merkel o della Brexit. Delle crisi di panico della signora May, anche dovremmo dire, che pure quella ha avuto un paio di giorni di gola, esatto. Assolutamente sì. Sì, anzitutto dobbiamo sempre contestualizzare il contesto macro, il contesto economico in cui questi eventi avvengono. Cioè, se gli eventi avvengono in un contesto che è un contesto di debolezza o di bassa volatilità, magari acquisiscono magari un rumore più alto e danno più movimenti sui mercati. Nei momenti invece in cui i fondamentali dell'economia sono comunque buoni e a livello globale il trend di crescita continua a essere positivo e sostenuto, i mercati guardano, badano al sodo. Ad esempio, in questo momento abbiamo dei dati di lavoro in America che sono occupazionali, che sono buoni, dei trend di crescita in Europa che sono buoni e in miglioramento, una liquidità abbondante sui mercati e le banche centrali che comunque continuano a svolgere un ruolo importante e che stanno gestendo in maniera molto cauta la situazione e il passaggio verso le manovre sempre più restrittive e di normalizzazione. Per cui questo insieme di contesti è comunque un terreno che dà solidità, che dà tranquillità, e allora questo consente di valutare gli eventi, diciamo così, di natura politica, esogena o in maniera, diciamo così, un po' più imprevisti della politica, in maniera, diciamo così, un po' più attenta e con un po' più di distacco, mentre in altri momenti di alta volatilità o di debolezza, cosa del genere, si reagisce più di pancia. Certo. Arrivano intanto diverse considerazioni da parte dei nostri ascoltatori e volevo solamente segnalare, perché non lo facciamo mai, quindi non possiamo cominciare oggi, non commentiamo singoli titoli, per cui non scrivetemi, chiedete al vostro ospite come andrà a Telecom piuttosto che Fincantieri o altro, perché non possiamo farlo. Magari possiamo ragionare su comparti, su settori, per cui se siete più curiosi in questa modalità preferiamo naturalmente commentare in questo senso. C'è chi interviene anche sul tema, Mauro, che sollecitavi all'inizio, il tema dell'investimento su titoli di Stato a rendimento a zero e sotto zero, una bella curiosità per tutti, adesso ci arriviamo. Volevo però fare con il dottor Parini appunto un'altra considerazione a proposito di numeri globali, perché in questi giorni sta rassegnando molte previsioni macroeconomiche il Fondo Monetario Internazionale. Intanto, un paio di giorni fa, la signora Lagarde ha ancora una volta bacchettato l'Italia sulla questione dei crediti deteriorati, che è una nostra grande problematica che stiamo in qualche maniera provando ad affrontare. Però ha anche detto che l'Italia quest'anno registrerà una crescita dell'1,5% del PIL. L'Italia, ha detto il Fondo Monetario, è il grande paese industriale che fa registrare l'espansione più forte, anche se resta in coda a tutti appunto gli altri paesi delle G7. È la giornata dei paradossi. Esatto. Compro titoli che mi verranno restituiti a meno di quello che li ho pagati. Noi siamo cresciamo un paese in crescita, ma in realtà siamo in coda. Sempre in fondo. Detto questo, tutta l'economia globale sta registrando una ripresa significativa. L'espansione globale, sempre secondo il Fondo Monetario Internazionale, sarà del 3,6% nel 2017 e del 3,7% nel 2018, ma adesso a prescindere dai numeri e dalle percentuali che magari ai nostri ascoltatori interessano relativamente, cosa ci dicono, dottor Parini, questi dati? Quali sono a suo avviso i rischi sui quali comunque, come piccoli risparmiatori, a prescindere dal trend economico generale che ci appare positivo, non possiamo abbassare la guardia? Questi dati comunque ci danno anzitutto un'idea di uno scenario prospettico che è sicuramente migliorato ed è positivo, per cui un buon segnale. Ed è anche abbastanza diffuso, perché comunque a livello globale ci sono dei fattori come ad esempio la ripresa del commercio internazionale, che è un po' l'elemento distintivo nell'anno corrente, che sta facendo registrare degli incrementi tendenziali superiori al 5% che non si realizzavano dal 2011. Sono comunque tutti fattori positivi e ben prognostici di un trend positivo. Va detto che comunque bisogna sempre stare attenti. Qua il tema principale è forse quello della debolezza dell'inflazione, che può essere visto come un bene o come un male, ma che potrà andare ad influire ovviamente su quelle che saranno le decisioni delle banche centrali, e quindi di per sé all'effetto delle decisioni delle banche centrali sui mercati. La guardia non va mai abbassata. Va detto che comunque siamo di fronte a dei dati che sono dati positivi, per cui questo è comunque una cosa buona. Certo. Allora, c'è un ascoltatore, Mauro, e quindi qua ci dà anche l'assist per la domanda successiva, che mi contesta il fatto che io enfatizzi così tanto i record della borsa americana. L'ho fatto questa mattina in apertura del mercato alle 9 nel collegamento con il giornale radio, ma io, per carità, come dire, testimonio quello che la cronaca mi offre. Per carità, Rosciani, lei il suo lavoro dei record del Dow Jones, perché dice, insomma, non considerate abbastanza e a sufficienza la componente valutaria, che in realtà, se considerata in maniera corretta, ridimensiona la corsa del mercato americano. In realtà è un'analisi che proprio a Investire Informati abbiamo fatto accuratamente, sicuramente almeno un paio di settimane fa, ma magari al dottor Parini chiedo un commento. Detto questo, il grafico degli indici americani mi sembra abbastanza inattaccabile, dollaro o no? Cioè, assolutamente, cioè lo Standard & Poor's, denominato in dollaro, ha fatto registrare un ottimo performance, è passato da 2250 a oltre 2550, e quindi il risultato è comunque positivo. Ahimè, il deprezzamento del dollaro nei confronti dell'euro ha giocato in maniera inversa per l'investitore italiano che investe in euro, e quindi ha eroso fino a portare negativo il rendimento dell'investimento su quello specifico mm-hmm. mercato, per cui questo anche è una cosa che va tenuta in considerazione. Il tema, ecco, dottor Parini, noi che non siamo del ramo, non Deborah, parlo di me, ci chiediamo, quando i mercati albero continuano a salire, poi c'è sempre il timore che improvvisamente scendano. Si cada precipitevolissimevolmente, come dice il proverbio. È questo il caso che possiamo prefigurare per la borsa americana? Cioè c'è un eccesso di fiducia in questo momento sui titoli americani, sui titoli statunitensi, e quindi questi record che continuiamo a vedere, e che peraltro all'inizio dell'anno tutti dicevano no, ci sarà invece un ridimensionamento della borsa americana, vedrete, però non abbiamo ancora visto, in realtà abbiamo visto sempre questo listino salire, come giustamente documenta Deborah in questa trasmissione e nei suoi collegamenti dalla borsa. Sì, la fiducia rimane, perché se andiamo a vedere i dati, i numeri, i dati macroeconomici, comunque sebbene in una fase matura del ciclo, l'economia americana gode di ottima salute, perché comunque i dati a livello occupazionale, i dati a livello della produzione, i dati sulle scorte che sono usciti, sono comunque dati positivi. E quindi la fiducia è sicuramente ben riposta in questo momento. Il ragionamento sui livelli di massimo che riguardano i multipli azionari, che riguardano i livelli degli indici di mercato, ricordiamoci sempre che non vanno mai presi in termini assoluti. Confrontare un massimo con un massimo di 5 anni fa non può essere fatto, perché il contesto in cui questi massimi sono stati toccati è differente. Per cui bisogna sempre relazionare il livello a cui sono arrivati i mercati con il contesto economico che c'è, e il contesto economico che c'è attualmente è totalmente diverso da quello che c'era quando il mercato americano aveva raggiunto il massimo precedente nel 2000, ed è un contesto dove c'è una politica delle banche centrali accomodante, cosa che non c'era, ed è soprattutto un contesto, e questo fa veramente la differenza a mio avviso, in cui il livello di liquidità sui mercati è molto ma molto più alto. Il mercato obbligazionario è a dei livelli che sono differenti rispetto a quelli in cui erano. Ma questa liquidità, esatto, questa liquidità però sta cominciando con cautela e prudenza, come dicevamo prima, ad essere drenata dalle banche centrali, e adesso questo è un tema che dobbiamo assolutamente affrontare nella seconda parte della trasmissione. Sai che c'è un ascoltatore che chiede anche, visto che alla Catalogna abbiamo dato tutta l'attenzione che era necessario dare, ma non è che il referendum del Veneto ci fa la stessa sorpresa sui mercati? Ma che ne dici? No, sono due cose molto diverse. Adesso detto in molto semplicemente, ma in realtà sono votiamo due anche qua in Lombardia, peraltro. Sono due referendum consultivi, quello lombardo e quello veneto. Sono due referendum che in realtà si appoggiano su quanto già sta scritto nella nostra Costituzione, cioè la possibilità di avere una maggiore autonomia. Il percorso è stato avviato dall'Emilia Romagna senza referendum, in una trattativa appunto col governo centrale. A me pare che quel referendum sia più interessante come dato politico che non come effetto sull'ordinamento, certo, dello Stato. Dello e Stato poi italiano. Detto questo, insomma, come avete anche visto per la Catalogna, nonostante l'effervescenza, tutte le intenzioni del leader Puigdemont appunto nel portare avanti, nel proclamare l'indipendenza catalana, in realtà già i suoi sogni si stanno infrangendo all'insegna della cautela che è necessario mettere in campo, perché poi il procedimento non è esattamente così semplice. Ieri Mariano Rajoy gli ha anche detto: vabbè, allora la proclami o no? Lo sta proprio anche sfidando. E gli ha dato anche i 5 giorni, che esatto, sono un ultimatum incredibile. Detto questo, sono le 11:31, caro Mauro. Vuoi sapere cosa succede oggi in borsa? Certo. Andiamo. Fineco, la banca numero uno in Europa nel trading, vi presenta Due di denari. The Royal Swedish Academy of Sciences has decided to award the Sveriges Riksbank Prize in Economic Sciences in memory of Alfred Nobel to Richard H. Thaler for his contributions to behavioral economics. C'è stato un grande dibattito sulla pronuncia di questo cognome, ma l'Accademia di Svezia dice Thaler, quindi Thaler. Esatto, quindi per adesso noi è faremo Thaler. Dello spelling, facciamo degli esercizi, perché noi dicevamo Thaler, ma io dicevo Thaler, me ne scuso con naturalmente il professor Thaler, premio Nobel per l'economia esatto. Comportamentale, cioè quando diciamo non decidiamo sulla base di scelte razionali, rigidamente razionali, ma invece sulla base magari di piccoli incentivi, esatto, spintarelle gentili. Non dire spintarelle, che sembra un'altra cosa. Vabbè, allora non lo dirò più. Detto questo, con noi questa mattina il dottor Marco Parin, direttore investimenti di Chebanca, per la nostra trasmissione del giovedì Investire Informati, prendendo spunto proprio anche dalla ricostruzione delle competenze del professor Thaler. Andando un po' a spulciare quelle che sono le preoccupazioni dei risparmiatori in questo momento, i vostri osservatori che cosa ci raccontano? La preoccupazione è sempre solo una, è quella di perdere, di perdere denaro. Ci sono momenti in cui ovviamente questa preoccupazione è dovuta o agli eventi che ci sono sul mercato, gli eventi politici o sovranazionali, ovviamente questa paura aumenta. Ed è interessantissimo che dopo Kahneman, anni fa, anche quest'anno l'Accademia del Nobel abbia dato il premio a una persona che si è occupata attivamente dei risvolti di come la psicologia influisce sulle scelte di investimento, perché comunque è una cosa che oggi ha particolare importanza e ha molti effetti anche sui mercati mm-hmm. stessi, perché i mercati alla fine sono fatti da persone, da operatori, e anche sulle persone e sugli operatori insiste un aspetto, diciamo così, psicologico e irrazionale. Cioè, l'economia si è sempre basata per anni su l'assunzione dell'investitore razionale o del consumatore razionale. No, qua dobbiamo rimettere tutto un po' in discussione. E sicuramente sono paure che vanno gestite. E sono paure su cui bisognerà ovviamente lavorare da un doppio punto di vista. Da un punto di vista ovviamente di andare a con una maggiore informazione, perché la paura è sempre nei confronti di quello che ci è ignoto, di quello che non capiamo, di quello che vediamo complicato. Per cui per andare a ridurre questa paura e quindi andare a ridurre quello che è il default comportamentale, perché ricordiamoci che la maggior parte delle perdite che gli investitori medio o gli investitori medi assumono è dovuto al default comportamentale, per cui a scelte sbagliate fatte in momenti sbagliati o per paura o per reazioni, diciamo, emotive. Cioè, troppo emotive, troppo, in questo caso. Troppo emotive. E nell'altro caso anche a diffidenza, se pensiamo a persone che magari, ad esempio abbiamo parlato all'inizio trasmissione del 2016, nel 2016 non hanno investito perché c'era Brexit, perché c'era le elezioni americane che potevano creare dei grossi problemi. Chi non ha investito nel 2016 ha perso una grande opportunità. E quindi bisogna agire da tutte e due le parti, sia nei confronti di una maggiore informazione e maggior trasparenza nei confronti dell'investitore, dall'altro lato anche con le spinte gentili, i nudge, che ovviamente riguardano degli incentivi che agiscono sulla psiche dell'investitore o del pubblico per andare a indirizzarli verso una scelta che è una scelta corretta. E qua l'esempio di tale è fondamentale anche per quanto riguarda tutta la parte della previdenza. Che infatti è un tema, l'abbiamo affrontato qualche volta due dinari, non si pensa alla previdenza se non quando diventa molto costoso pensarci. Assolutamente. Cioè, superata magari la soglia del mezzo secolo, uno dice beh, potrei preoccuparmi della mia pensione, ma a quel punto scopri che ohimè è molto molto costoso mettere da parte qualcosa in pochi anni. Se si fosse cominciato in anni giovanili con un piccolo investimento si poteva mettersi più al sicuro. Assolutamente. Vi segnalo intanto come si sono concluse le aste che abbiamo preannunciato questa mattina, che così magari ci danno anche materiale per commentare questo grande tema del rendimento del settore obbligazionario, che in realtà è degno appunto di analisi. Allora, i BTP a 7 anni assegnati per 2 miliardi hanno spuntato un rendimento che è in leggerissima risalita all'1,53%. I 4 miliardi di euro di BTP triennali hanno registrato un rendimento dello 0,15%, 3 anni, 0,15%. Il BTP a 30 anni, perché sappiamo che il Tesoro italiano sta provando ad allungare la durata appunto del debito italiano, ne sono stati assegnati quasi 1,5 miliardi. Il rendimento per un BTP a 30 anni è del 3,33%. Ad avere pazienza, però vedi, non c'è stato come nelle ultime 24 volte. Esatto. Ci manca pure che con la 30 anni fosse negativo. Con rendimento negativo, sì, aspettare 30 anni per poi appunto prendere meno di quello che è stato portarsi a casa il 3% in 30 anni equivale quasi a comunque a ottenere un rendimento pressoché negativo. Rendimento da prefisso internazionale, mi sembra di capire. Dottor Parini, che cosa dobbiamo dire a proposito di questo andamento? Sicuramente generato dal famoso quantitative easing di Mario Draghi, grandi acquisti sul mercato di titoli di Stato e di obbligazioni societarie, ma prima o poi questa tendenza dovrà terminare. Sicuramente molto contento il Tesoro italiano, che paga meno interessi sul debito pubblico, anche se lo stock continua ad aumentare, però anche chi investe in questo segmento non porta a casa grandi soddisfazioni. No, ovviamente no, non porta a casa grandi soddisfazioni perché il rendimento è negativo. Ricordiamoci che l'obiettivo principale dell'investitore privato è quello di ottenere un rendimento netto che sia superiore alla perdita di potere d'acquisto, per cui al tasso di inflazione, che è ben superiore a almeno 0,3, meno 0,4, che è il rendimento che ad oggi fanno segnare i bot a 3 mesi, ad esempio. e ovviamente il livello dei tassi di titoli di Stato è frutto anche dell'attività e delle politiche monetarie che sta mettendo in atto la Banca Centrale, e che dal 26 di questo mese sappiamo già come verrà a essere modificata a partire dal primo di gennaio del 2018, per cui sicuramente le cose stanno cambiando. Quello che ci aspettiamo e che il mercato sta scontando e si aspetta è comunque un atteggiamento della Banca Centrale molto accomodante, sebbene in direzione restrittiva, per cui non ci si aspetta comunque una cosa brusca, una riduzione brusca, ma comunque se no, soprattutto lì sì che si innervosiscono i mercati, assolutamente vero? Sì, ma soprattutto dal punto di vista del linguaggio. Oggi comunque il mercato è un mercato che continua ad esserci anche per questi strumenti che hanno rendimenti negativi, in particolare i titoli di Stato italiano, per considerazioni che ovviamente, se guardiamo agli investitori professionali, per cui alle banche e ai fondi, in un contesto dove alle banche la liquidità costa meno 0,40 se depositata in BCE, andare a prendere meno 0,35 è meglio che prendere meno 0,40. Questo riesco a capirlo persino io. Per gli investitori privati invece il contesto riguarda degli altri aspetti che caratterizzano l'investimento in titoli di Stato, che può essere l'aspetto fiscale o l'aspetto successorio sicuramente. Senti, allora, ti vedo che scalpiti, ma facciamo il domandone però prima, allora, dai, che così di scatene. Poniamo il domandone. Vogliamo sapere quest'oggi. Aspetta, perché sai che c'è il rischio. Perché poi altro che mercati è Peter che, se non lo facciamo esibire al mixer, si innervosisce, lo sai. Allora, quest'oggi vogliamo sapere, dovete risponderci telefonando al nostro numero 800240024. L'abbiamo detto poco fa, per cui non potete aver perso l'informazione. Quante sono le aste consecutive di bot a un anno che hanno visto un rendimento negativo? Adesso ci fermiamo un istante, vi diamo il tempo per comporre il numero e noi intanto ascoltiamo il traffico. Due di denari. Look into your crystal ball, oh wise one, and tell me the answer. How can we protect ourselves from the next financial meltdown? Look at your crystal ball. Guarda nella tua sfera di cristallo. Ce lo chiedono in realtà alcuni ascoltatori, perché ci fanno delle domande che impongono anche di fare delle previsioni che è meglio non fare, direi, Mauro. Che cos'era questo che abbiamo ascoltato? Questo qua è un sonoro di un video molto interessante, molto di FT, carino, che dice, che trovate in rete dal sito della Financial Times e che ma anche sul nostro sito, sul sito del Sole 24 Ore, e sul sito del Sole 24 Ore circolare, e che sostanzialmente dice: ma possiamo capire quale sarà la prossima crisi e che cosa la scatenerà? È molto divertente perché è fatto con dei fumetti, con delle animazioni gradevolissime, guarda. Anche se non vi interessa per nulla l'economia o siete nati, beati voi, ricchissimi e quindi non dovete preoccuparvi di queste cose, però potreste passare piacevolmente qualche minuto guardando appunto questo filmato. Lo trovate sul nostro sito o anche naturalmente sul sito dell'FT. È un video fumetto, la serie precisa si chiama Punk Economics ed è stata proprio elaborata dal Financial Times. Allora, peraltro, un tema molto interessante, insomma, leggi dalla tua sfera di cristallo che cosa potrà succedere, e qui mi serve anche questa indicazione, questa modalità con cui viene costruito questo video fumetto per agganciarci la domanda che ci fa un ascoltatore, dottor Parini. Dice proprio: chiedete al dottor Parini, supponendo che i mercati rimangano stabili o in leggera crescita fino a fine anno, quindi questa condizione di lateralità del mercato, no? Mi pare di capire che si possa identificare in questa maniera, questa condizione, è possibile allora ipotizzare una correzione forte nel mese di gennaio e febbraio? A lei il compito di mettersi il turbante del Mago Telma o di Moira Orfei, quella che preferisce, per così darci questa previsione con questo largo anticipo, così ci prepariamo tutti. No, se fossimo in grado di fare questo tipo di previsioni, le cose andrebbero diversamente e magari saremmo anche tutti più ricchi. Anche più felici. E più felici, assolutamente. Non è possibile andare ad immaginare quando potrà esserci, se ci sarà una correzione o che cosa. Quello che si può vedere e il modo in cui dobbiamo essere abituati a operare sui mercati è anzitutto vivere la giornata tenendo d'occhio quello che succede, per cui stando attenti e vedendo che comunque se i fondamentali continuano ad essere buoni, non ci sono particolari eventi che possono andare a destare o a aumentare la volatilità sui mercati, la situazione può rimanere così. Quando scoppierà la prossima, quando ci sarà la prossima correzione, questo non è dato saperlo, dipende da mille cose, può essere scatenata da dei dati o da delle elezioni o da eventi di natura geopolitica, nessuno lo può dire. Quello che possiamo dire sicuramente è che quello che abbiamo già detto in questo momento, diciamo, il contesto è comunque un contesto che sebbene incerto come lo è sempre, è comunque un contesto favorevole. Allora, dottor Parini, io le faccio una domanda molto semplice, diciamo. Mettiamo che io abbia 10.000 euro, vorrei che lei mi dicesse in quali ambiti posso mettere questi 10.000 euro in un modo alternativo. Da una parte voglio fare un portafoglio prudente, cioè voglio conservare almeno il capitale, voglio rischiare poco; dall'altra invece vorrei essere un po' più audace e andare in cerca di rendimenti. Però le lascio pensare un istante, perché intanto chiamo in causa Enrico da Torino. Buongiorno Enrico. Buongiorno. Buongiorno. Allora, la risposta: quante sono le aste consecutive di bot che hanno rendimento negativo? Temo 24. 24, 20, come dice, il sole 24 ore. Lo dice con apprezzo, ma tu guarda che coincidenza stamattina. Ma guarda, sembra che ci abbiamo pensato. 2 anni tondi celebra questa asta negativa praticamente. Grazie, grazie Enrico. Grazie, riceverà il nostro premio. Allora, le ho dato qualche secondo per pensare. Come posso costruire? Su cosa posso puntare? Non abbiamo premi, abbiamo solo CD dei Chapter 11 e qualche libro della nostra biblioteca. Guarda che sono signori premi, cara Deborah. Dottor Parini, possiamo mandare anche la Yellow Strategy di Che Banca, perché loro hanno mensilmente elaborano questo documento previsionale che magari i nostri lettori leggerebbero volentieri. Se ci manda gli ultimi due numeri, facciamo circolare anche quel documento. Assolutamente, assolutamente. In merito alla sua domanda su come investire, come impiegare, sicuramente nel contesto attuale andrei su uno strumento di risparmio gestito, soprattutto se parliamo di somme contenute come possono essere 10.000, 20.000 euro. Tre sono i capisaldi, a mio avviso, in questo momento per poter investire in maniera puntuale e senza andare a rischiare o massimizzando il rendimento a fronte del rischio. Uno, affidarsi ad una gestione professionale. Due, non andare ad investire nel breve termine, per cui quando si fa un investimento bisogna sempre avere un'ottica di medio-lungo termine, perché quella è la nostra... Che significa 3-5 anni. 3 e 5 anni, cioè la prima cosa che deve fare un investitore è cercare di capire qual è il suo rainy day, cioè il giorno peggiore della sua vita, e quant'è i soldi che possono essergli necessari da un giorno all'altro, e quello va lasciato in alta qualità e liquido. Tutto il resto va messo al lavoro, ma va messo al lavoro bene. E noi parliamo spesso delle paure dei mercati, della volatilità, ma abbiamo dentro due armi endogene nel nostro comportamento che ci preservano e sono la prima protezione nei confronti del rischio. Una è la diversificazione e l'altra è l'orizzonte di medio-lungo termine. Per cui bisogna andare in maniera diversificata, e per questo le proporrei di andare a prendere un buon strumento di risparmio gestito, un buon fondo multi-asset tarato su quello che è il suo orizzonte temporale, il suo livello di rischio, e di fare in modo che comunque sia il gestore di quel fondo a decidere quanto del capitale del fondo sia da investire sull'azionario, sull'obbligazionario, sul dollaro, sullo yen, sull'euro, in maniera tale da avere un'ottimizzazione e consentire a chi è tutti i giorni sul mercato e dà più informazioni di noi di gestire al meglio il patrimonio. Sicuramente non è più il momento né di fare fai da te, né tantomeno, come si faceva in passato, di prendere uno strumento e tenerlo fino alla scadenza e dire ok, ho fatto il mio investimento, adesso aspetto che scada. Bisogna tenere gli occhi aperti, gli investimenti vanno monitorati tutti i giorni, e proprio per questo lo devono fare le persone che hanno più informazioni e sono più capaci di noi. Mi aggancio ad un'indicazione concreta che ha dato nel corso della sua risposta, perché c'è un ascoltatore, Luca, che chiede velocemente quest'anno, ah no, non è Luca, è un altro ascoltatore. Vendo un appartamento con l'obiettivo di mantenere il capitale per l'acquisto di un'altra abitazione dopo alcuni anni. Quindi lei parlava prima di quella collocamento di liquidità in modalità altamente qualitativa. Qual è secondo lei la soluzione giusta per accantonare temporaneamente un'alta somma? Ad oggi l'unico strumento sono i conti remunerati, per cui una forma di liquidità, certo, remunerata, conto di deposito, o, diciamo, esattamente, con questo obiettivo, perché il titolo di Stato a breve termine, degli strumenti sapere. Obbligazionari che diano nell'orizzonte temporale che si prefigge un rendimento positivo. Grazie, se parliamo, certo, di un investimento qualcosa momentaneo, qualcosa che si smonta molto rapidamente e senza dolore. Caro Mauro, abbiamo terminato, dobbiamo salutare perché là si sbracciano. Sì, Peter è già nervosissimo. E allora, Due di Denari torna domani, potete riascoltarci in podcast, grazie, naturalmente. Grazie dottor